Euroreportage. Le porte d'Europa, dopo Lampedusa, verso un nuovo diritto d'asilo. Diana Migliorati. Credo che tutti insieme possiamo reagire in modo più adeguato a tragedie come questa. L'Europa non può girarsi dall'altra parte quando ci sono barche che stanno affondando e si stanno distruggendo speranze e vita. Il vostro coraggio, la vostra compassione, la vostra abnegazione sono un esempio che deve ispirare gli Stati membri dell'Unione Europea sulla strada di una vera politica europea dell'immigrazione e dell'asilo, basata sulla solidarietà, sulla condivisione e sul sostegno reciproco. L'hanno promesso agli abitanti di Lampedusa, l'hanno promesso ai migranti in arrivo in cerca di un futuro, l'hanno promesso alle vittime del peggior naufragio della storia sulla costa dell'Unione Europea. Il presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, e la commissaria Cecilia Malmström un punto l'hanno ben chiaro: dal naufragio di Lampedusa e dai suoi 370 morti non si torna indietro. Una tragedia che ha fatto e farà la storia anche per l'Unione Europea. Storia di un continente che ora si interroga su come e se aprire le proprie porte, tra i malumori interni ai singoli paesi e una politica comune tutta da costruire. Perché se l'emergenza fino a qualche anno fa era l'arrivo di chi cercava in Europa un lavoro, ora arrivano come un'onda inarrestabile i profughi dai paesi in guerra sulle sponde del Mediterraneo. Nel 2012 sono stati registrati nei paesi dell'Unione Europea 330.000 richiedenti asilo. Ai vertici delle classifiche, afghani e siriani. Questi ultimi, soprattutto, 2 milioni sono oggi nei campi profughi dei paesi confinanti e si stima saranno presto 3 milioni e mezzo. L'ONU ha chiesto all'Europa di accoglierne 10.000. Si sono offerti 9 paesi: Germania, Finlandia, Austria, Danimarca, Svezia, Ungheria, Lussemburgo, Olanda e Irlanda. Ma sono solo, vale dirlo, una goccia nel mare. Sono migliaia quelli che arrivano a bussare alle porte d'Europa, come spiega al microfono di Cinzia Caserio Christopher Hein, direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Il numero stimato di siriani in Libia è intorno a 130.000, arrivati attraversando l'Egitto. Un'altra rotta nuova è dalla Turchia e una parte prendono la via terrestre verso la Bulgaria o appunto via mare verso l'Italia. Il problema di fondo è che non c'è attualmente alcuna possibilità di fare una richiesta d'asilo prima di essere arrivato fisicamente nel territorio dell'Unione, per esempio a Lampedusa, quindi non c'è una possibilità di andare a un'ambasciata o un consolato in paesi di transito come la Libia o come Egitto. Le persone non hanno per questo un'altra scelta di quello di mettersi nelle mani dei trafficanti, di pagare rischiando la vita in mare. La nostra proposta, numerose altre associazioni in altri paesi in Europa, è di aprire canali di arrivo legale e protetto in Europa, certamente dietro procedure, dietro criteri di selezione, per ridurre il fenomeno delle imbarcazioni e conseguentemente anche ridurre il numero delle vittime. Dunque, aprire o no le porte sarebbe un assalto alle nostre ambasciate all'estero? La porta d'Europa è e resterà Lampedusa coi suoi morti? La vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Angelilli. C'è una proposta del Parlamento europeo, è quella di un potenziamento di Frontex anche nel senso di avere delle sedi operative nei paesi che affacciano sul bacino del Mediterraneo. In questo momento la sede operativa di Frontex è a Varsavia, molto lontana da quello che è il luogo che invece fronteggia i flussi migratori e le emergenze umanitarie. Quindi coinvolgimento degli altri paesi solo nel controllo delle frontiere o anche nell'aiuto e nell'accoglienza? a 360 gradi. Quando c'è un'emergenza umanitaria, tutti gli Stati membri devono essere chiamati a condividere le responsabilità. Se ci sono dei richiedenti asilo che hanno il diritto di essere accolti, gli Stati membri devono condividere. Andrebbe ripensata la richiesta di asilo a livello europeo? Sì, andrebbe rivisto il sistema di Dublino, perché l'idea che tutte le pratiche, anche burocratiche, vengono svolte nel paese del cosiddetto primo approdo può diventare un meccanismo molto farraginoso e complicato. C'è chi sostiene che un modo per frenare quella che ormai viene definita la tratta di esseri umani è quella di consentire in qualche modo la richiesta di diritto d'asilo nei paesi da cui arrivano queste persone, o perlomeno nei paesi nei quali trovano il primo rifugio, e quindi evitare l'arrivo in massa attraverso i barconi, attraverso il mare. Può essere un'ipotesi questo allargamento delle porte d'Europa o troppo rischioso? Allora, noi dobbiamo garantire dei corridoi umanitari per le persone che veramente hanno il diritto di chiedere asilo, cioè quindi veri profughi, veri rifugiati. Per quanto riguarda i migranti economici, noi siamo chiamati a rispettare le regole, quindi andare oltre significherebbe non rispettare le regole, semplicemente. Anche per questo, per ora, Bruxelles il capitolo asilo non l'ha affrontato. Nel Consiglio europeo, in cui si è discusso di immigrazione, è rimasto fuori, ma se ne riparlerà, e presto. Perché chi arriva in Europa resterà. Per andare dove? Ben pochi in Italia. Stando ai numeri forniti da Eurostat, l'Italia è solo al sesto posto per numero di rifugiati accolti. E se si considera la percentuale sul totale della popolazione, scivoliamo al 14° posto. Germania, Francia e Inghilterra hanno molti più rifugiati di noi. Ma anche i paesi più piccoli, come Svezia, Olanda, Belgio, Finlandia. Funziona ancora il diritto d'asilo in Europa? Per anni, presidente della Commissione del Consiglio d'Europa che si occupa di immigrazione e rifugiati, l'italiano Giacomo Santini. Non funziona più, chiaramente, perché sono cambiate le condizioni dell'immigrazione. In effetti oggi sono più i rifugiati, quindi con diritto di asilo, degli immigrati economici. Se non si arriva ad una comunitarizzazione, si diceva una volta, anche di questo settore, io credo che andremo verso il caos sociale entro pochi mesi. Si dice spesso ognuno faccia la sua parte, eppure paradossalmente percentualmente in Italia i profughi non sono moltissimi. Allora qual è il nodo? Ma l'Italia non è il paese desiderato dalla maggior parte di questi immigrati e di questi rifugiati. Abbiamo visto appunto che le percentuali portano verso la Svezia moltissimi, per esempio, e poi la Germania, la Francia sono in questa classifica di destinazione privilegiata, e quindi bisogna dialogare con questi paesi. È inutile che in Italia vengano trattenuti immigrati che diventano in breve tempo dei clandestini, dei reclusi, e con possibilità anche di reazioni violente. E deve essere fatto a livello giuridico, non soltanto di volontariato o di demagogia politica. Sarà uno scontro durissimo, però, ancora una volta interno all'Europa, secondo lei? E ora comunque sono maturati i tempi perché questo scontro avvenga, perché se si lascia maturare ancora il bubone esploderà in maniera assolutamente incontrollabile. Quindi vi sono tre fasi da affrontare. Innanzitutto la prima, quella del controllo del mare. Il secondo è questo dell'asilo, una regolamentazione sicura e duratura, io direi, non aleatoria basata sull'emotività di un momento. E poi infine il terzo passo, non è immaginabile che si diventi dei reclusi solo perché si fugge da una guerra civile o da una situazione di bisogno estremo. Ecco, questi sono i tre passi che la civiltà europea deve compiere. Secondo lei l'Europa e soprattutto gli europei hanno capito che l'immigrazione di oggi non è più quella di 10 anni fa, 15 anni fa? Sì, credo che l'abbiano capito davvero. Mentre una volta c'era l'immigrato isolato, veniva a cercare fortuna e poi chiamava la famiglia, oggi fuggono intere famiglie. Io come presidente della Commissione Immigrazione e Rifugiati del Consiglio d'Europa ho avuto l'opportunità di visitare almeno una decina di campi di detenzione in Grecia, Turchia, Siria e poi anche in Europa, dove, credetemi, le condizioni non sono meno crude. Anche in Europa, Bruxelles, Strasburgo per esempio, ci sono condizioni di autentica detenzione. dentro le quali maturano chiaramente delle reazioni che non sono quelle di un'integrazione armoniosa, e quindi anche questo è un problema da affrontare. Il dopo averli accolti, che cosa facciamo di questa gente? È una risposta che devono dare in coro molti paesi, non immagino tutti i paesi europei, ma almeno quei 4-5 paesi che sono davvero chiamati a rispondere a questa emergenza umanitaria. Un appello accorato che arriva dalle vittime del naufragio di Lampedusa, la voce dei sommersi, come li ha chiamati Ennio Morricone, che a loro ha dedicato musica e voci. Le grida che sentite dei disperati trascinati via dalle onde. Questo brano cristiani e musulmani lo ascolteranno oggi insieme, raccolti in preghiera nella chiesa di Santa Maria Incoronata a Milano. Perché l'Europa ascolti quel che ci chiedono. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.